Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, eccoci ritrovati a Focus Economia. Anche stasera tocca a me fare insieme a voi il punto della giornata economico-finanziaria. Come inizio d'anno, anche quest'anno, come ogni inizio d'anno che si rispetti, abbiamo il fatto di geopolitica internazionale che in qualche maniera condiziona molto i mercati finanziari, oltre che chiaramente a destare diverse preoccupazioni. Ne parliamo da questa mattina. Abbiamo avuto l'attacco americano all'aeroporto di Baghdad che ha provocato la morte del generale iraniano Qassem Soleimani. Una notizia di cui adesso vi daremo anche un po' così tutta l'escalation poi della giornata all'inizio di Focus Economia, tanto per ricostruirvi un po' quello che è accaduto, che ha oggi mandato un po' a tappeto le borse, ha fatto volare le quotazioni del petrolio e ha riportato molti investitori, come sempre capita in queste circostanze, sui cosiddetti beni rifugio. Ora c'è anche da dire che la borsa arrivava da giornate di record continui e quindi io direi che oggi più che una preoccupazione, poi diciamo che se ci sarà preoccupazione per un'escalation della situazione iraniana e della situazione fra Iran e Stati Uniti, probabilmente il trend negativo si consoliderà nei prossimi giorni. Oggi intanto gli operatori hanno cominciato a portarsi a casa un po' di profitto rispetto ai guadagni realizzati negli scorsi mesi, e quindi abbiamo un ribasso generalizzato che però poi nel corso delle pomeriggio peraltro si è ridotto fra tutti i mercati finanziari. Londra addirittura è in una condizione positiva in questo momento, Milano perde mezzo punto, ieri ha guadagnato quasi un punto e mezzo, per cui in realtà il ribasso è anche piuttosto contenuto. Di sicuro il prezzo del petrolio ha spiccato il volo, le quotazioni del WTI, il greggio di riferimento americano, sono a valori che non si vedevano dal maggio scorso. Io ho un grafico sotto gli occhi in questo momento e vedo che le quotazioni proprio simili erano praticamente circa 8 mesi fa. Siamo a $63,28 al barile, il Brent del Mare del Nord è vicino ai $69 al barile. Di tutte le ripercussioni possibili a livello economico di questa giornata ne parleremo tra poco con un esperto, chiaramente facendo un focus soprattutto sulle questioni legate al greggio, al petrolio. E peraltro c'è già chi in Italia non ha mancato di dare l'allarme sulla fiammata al prezzo appunto della benzina che si potrà determinare nei prossimi giorni, quando peraltro tutte le famiglie italiane che sono in giro ritorneranno a casa per far ripartire l'anno con la scuola, la ripresa del lavoro e quant'altro. E questo è un tema del quale parleremo. Gli altri temi che affronteremo questa sera, oltre che ad approfondire poi nel dettaglio la giornata di borsa che oltre ai titoli petroliferi vede anche altri protagonisti in negativo, giornata stortissima per tutte le banche, parleremo di mercato dell'auto. Come sapete, il primo di ogni mese il Ministero dei Trasporti comunica i dati sulle immatricolazioni in Italia. Il dato viene diffuso generalmente alle 18, siccome in questi giorni andiamo in onda in una versione ridotta, ieri sera non abbiamo fatto in tempo a darvi il dato di dicembre, il dato complessivo sul 2019 lo abbiamo oggi, lo approfondiremo. Un'auto che nel 2019 incassa comunque vendite in rialzo rispetto all'anno precedente dello 0,3%, anche il mese di dicembre si è archiviato piuttosto bene perché le immatricolazioni sono cresciute del 12,5%, ma c'è una grande fase di transizione che riguarda il mercato automobilistico, la produzione, le scelte anche di investimento in questo senso che fanno i consumatori. Anche di questo parleremo questa sera. Per Fiat dicembre non è andata particolarmente bene, vedremo poi nel dettaglio che cosa è successo per il gruppo reduce peraltro, come sapete, dall'annuncio della grande operazione con Peugeot Citroën. Infine, un altro tema che approfondiremo, ve l'ho anticipato anche questa mattina a Due Denari, vi racconterò che cosa ci dice quest'anno il rapporto COP che fotografa generalmente un po' quelle che sono le attitudini degli italiani, non tanto nel dettaglio le scelte di consumo che fanno, quanto un po' si va a scandagliare quello che c'è nell'animo dei consumatori italiani, che cosa guida le scelte di consumo degli italiani. E quest'anno in questo rapporto c'è una grandissima attenzione rilevata fra gli italiani per l'appunto, per il clima, per l'ambiente, per la sostenibilità, che sono le tre parole che per gli italiani caratterizzeranno il 2020 sulla scia dei nuovi valori, dice il rapporto, imposti dai ragazzi della generazione generazione Greta al resto della società italiana. Peraltro si parla di italiani prigionieri del presente, italiani che vogliono cambiare, ostaggi di una economia che non assicura lavoro e redditi soddisfacenti, preoccupati per l'immigrazione, per quelle note dolenti ci sono, ma ce ne sono anche di positive e ve le racconteremo più tardi. Fatto tutto questo necessario e inevitabile preambolo della serata in partenza di trasmissione, vi ricordo anche che potete intervenire inviandoci dei messaggi al 349 238 6666, riceviamo i vostri sms, riceviamo i vostri messaggi su WhatsApp, adesso che direi che possiamo partire con le notizie in breve. Fotografia, la Polaroid in borsa, meno 0,13% Parigi, Francoforte meno 1,39%, Londra più 0,20%, Milano meno 0,54%, Wall Street il Dow Jones perde quasi un punto, lo Standard & Poor's ne perde lo 0,8%, il Nasdaq, un attimo che mi è partito il grafico, meno 0,7%, spread BTP e Bund in Italia 162 punti base, quindi per un giorno non è questo un tema di preoccupazione fra gli investitori, e prezzo del petrolio molto alto. Tutto questo scatenato, appunto, come sapete, dall'attacco all'aeroporto di Baghdad sferrato dalle forze americane, che hanno determinato appunto la morte, è stato ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Il Pentagono appunto questa mattina, non appena si è diffusa la notizia, si è abbastanza affrettato a confermarla. L'attacco che ha ucciso Soleimani punta ad essere un deterrente per futuri piani di attacco iraniani. Il Pentagono ha espresso proprio questo concetto, affermando che gli Stati Uniti continueranno ad assumere le azioni necessarie per proteggere la gente e gli interessi americani ovunque nel mondo. Donald Trump, il primo commento su quanto accaduto, da lui stesso autorizzato, lo ha rilasciato come al solito su Twitter, molto scarno. In primo luogo ha postato una bandiera americana, poi è andato avanti con un messaggio un po' più articolato. Il generale Soleimani ha scritto: ha ucciso o ferito gravemente migliaia di americani durante un lungo arco di tempo, stava complottando per ucciderne molti altri e quindi è stato preso. Soleimani, ha continuato Trump, è stato direttamente e indirettamente responsabile per la morte di milioni di persone, compreso un grande numero di manifestanti uccisi di recente nello stesso Iran. Doveva essere fatto fuori molti anni fa. Insomma, molti peraltro sostengono che forse Trump non era del tutto d'accordo nel fare questa operazione, ma è stato spinto dai suoi consiglieri più intransigenti, che da tempo sollevavano la questione della pericolosità di quest'area. La decisione del presidente Trump ha salvato molte vite umane, ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo alla CNN, spiegando come l'uccisione di Soleimani abbia sventato un imminente attacco contro gli Stati Uniti. L'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad sollecita i cittadini americani a lasciare l'Iraq immediatamente. I cittadini americani partano, a appunto sollecitato l'ambasciata statunitense, per via aerea dove possibile, altrimenti raggiungano altri paesi via terra. Le reazioni rispetto a tutto questo sul fronte interno medio orientale, ma anche poi sul fronte internazionale. La guida suprema iraniana Ali Khamenei ha chiesto 3 giorni di lutto nel paese, affermando che la morte di Soleimani raddoppierà la motivazione della resistenza contro gli Stati Uniti e contro Israele. Il lavoro e il cammino del generale Soleimani non si fermeranno e una dura vendetta attende i criminali, le cui mani nefaste sono insanguinate con il sangue di Soleimani ed altri martiri dell'attacco della notte scorsa. Questa è ancora la dichiarazione di Khamenei. Gli Stati Uniti devono cominciare, e qua andiamo proprio sul pesante come affermazioni, a ritirare le loro forze dalla regione islamica da oggi o cominciare a comprare bare per i loro soldati. Questo invece è quanto affermato dal vice capo delle guardie della rivoluzione iraniana, Mohammed Reza Naqdi. Dicevo, le reazioni internazionali. Allora, intanto la NATO ha fatto sapere di monitorare la situazione in Iraq con grande attenzione, mantiene una presenza limitata in quest'area per addestrare le forze di sicurezza del governo, l'alleanza, e non è stata appunto coinvolta nell'attacco di Soleimani. Seguiamo però da vicino la situazione nella regione e restiamo a stretto contatto e regolare contatto con le autorità statunitensi. Questo è un momento in cui i leader devono esercitare la massima moderazione. Il mondo non può permettersi un'altra guerra del Golfo, perché questa a questo punto è l'altra grande incognita: che cosa succederà nei prossimi giorni. Questa è l'affermazione fatta invece dal segretario generale dell'ONU Antonio Guterres in una nota del suo portavoce. Guterres ha sostenuto la necessità di una de-escalation nel Golfo ed è profondamente preoccupato per quanto accaduto nelle ultime ore. Le dichiarazioni di Putin: l'uccisione del generale Soleimani rischia di aggravare la situazione in Medio Oriente. Breve ma molto incisivo. E poi abbiamo una nota del presidente del Consiglio europeo Charles Michel: il ciclo di violenza, provocazioni e ritorsioni a cui abbiamo assistito in Iraq nelle ultime settimane deve finire, una ulteriore escalation deve essere evitata a tutti i costi. L'Iraq rimane un paese molto fragile. I capi di Stato e di governo delle altre economie che si sono fatti sentire in queste ore da Berlino, c'è stata una dichiarazione da parte di non direttamente Angela Merkel, ma la sua portavoce in una conferenza stampa, ha detto: alla luce degli sviluppi della situazione iraniana, il governo tedesco esprime preoccupazione per il pericoloso momento di escalation. Tutti sono preoccupati per una situazione che potrebbe deteriorarsi ulteriormente. Quindi dalla Germania si sollecita oculatezza e moderazione per contribuire alla distensione nella regione. Macron dalla Francia vuole evitare una nuova pericolosa escalation. Questa sembra proprio la frase più gettonata in assoluto da tutti, e anche in questo caso è stato lanciato dalla Francia un appello alla moderazione. Cosa si dice dall'Italia, dalla Farnesina? Ministero degli Esteri: gli ultimi sviluppi della situazione in Iraq sono molto preoccupanti. Negli ultimi giorni avevamo assistito ad una pericolosa escalation culminata nell'uccisione appunto del generale Soleimani. L'Italia lancia un forte appello affinché si agisca con moderazione e responsabilità, mantenendo aperti i canali di dialogo, evitando atti che possono avere gravi conseguenze sull'intera regione. Peraltro ovviamente ci sono anche delle preoccupazioni per gli interessi che il nostro paese ha in quell'area. Il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, parlando del raid americano, ha detto: non c'è dubbio che di fronte a questa azione l'Iran dovrà reagire, non può perdere la faccia. In che modo lo farà non lo sappiamo, ma è chiaro che l'Italia, con i suoi 1000 militari in Libano, i 300 in Libia e gli addestratori in Iraq, è particolarmente esposta. Allora, qua le agenzie da leggervi sarebbero ancora decine, ma per il momento ci limitiamo, perché poi andiamo su questo tema con un approfondimento di taglio prettamente economico, direi petrolifero. Le quotazioni dell'oro sono in rialzo sui mercati internazionali. Il metallo appunto si è portato a $1,543 l'oncia. Del petrolio vi ho già detto, andrei adesso velocemente alle altre notizie che hanno caratterizzato questa giornata economico-finanziaria. Dopo parleremo appunto di matricolazioni auto in Italia, ma oggi abbiamo avuto anche il dato relativo al mercato americano. Vi dico quello che è successo per Fiat Chrysler, che nel quarto trimestre del 2019, ma ci sono anche i dati per tutto il 2019, ha fatto sapere di aver venduto nel mercato americano appunto il 2% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 542.519 vetture. Per il 2019 Fiat Chrysler USA ha venduto l'1% in meno di auto rispetto all'anno precedente, 2.203.663 vetture. Ancora un paio di notizie che riguardano ancora il lavoro in Italia. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL fra gennaio e novembre scorsi sono state 590.679, 997 delle quali con esito mortale. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 56.556, cioè un aumento sull'anno precedente del 2,7%. Questo è il bilancio pubblicato appunto dallo stesso istituto. In realtà sono dati provvisori riferiti solo agli 11 mesi del 2019. Le denunce di infortunio presentate entro il mese di novembre sono state 590.679, 1.299 in meno rispetto ai primi 11 mesi del 2018. Nel 2019 calano la produzione, meno 2,9% in quantità, e gli acquisti delle famiglie, meno 3,3% in quantità, a fronte di una performance positiva dell'export. Sono dati della nota congiunturale relativa ai primi 9 mesi del 2019 elaborata dal Centro Studi Confindustria Moda per Asso Calza Turifici. Aumenta il divario fra la performance delle Griff e le piccole e medie imprese con marchio proprio, che costituiscono peraltro l'ossatura dei distretti. Oltre la metà del campione dichiara, con riferimento ai primi 9 mesi dell'anno, un arretramento rispetto ai livelli di produzione dell'anno precedente. Per i consumi interni nessun miglioramento significativo dopo l'estate. Gli acquisti delle famiglie registrano una contrazione del 3,3%. Un'ultima notizia riguarda il panorama fiscale. Il restyling della flat tax degli autonomi, contenuto nella legge di bilancio per l'anno appena iniziato, manderà in fumo 10.000 lavoratori neo iscritti al regime forfettario. A stimarlo l'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, spiegando che si tratta di coloro che hanno aperto la partita IVA proprio lo scorso anno, ma che avevano pure reddito da lavoro dipendente o assimilato. I nuovi requisiti della norma fiscale, infatti, includono quello di non aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro, così hanno chiarito i professionisti. Per le notizie in breve è tutto, andiamo velocemente in Medio Oriente. Immancabile l'appuntamento in queste circostanze con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buonasera presidente, grazie di essere tornato con noi. Buon anno, se così lo possiamo definire, almeno per voi analisti di questo, sì, di questa buon tematica. Anno, era un mercato tranquillo. Adesso infatti abbiamo qualcosa da raccontare. Esatto, era un mercato tranquillo, anche l'OPEC si era abbastanza tranquillizzato, insomma stava portando avanti una serie di tagli per sostenere, come dire, le quotazioni. Certo che se continua così la crisi irachena, non saranno necessari altri tagli per sostenere i prezzi, no? Perché il mercato andrà dietro a queste vicende geopolitiche. Presidente Tabarelli, cosa ci dobbiamo aspettare? Intanto ci racconti un po' quali sono le reazioni di questo settore in queste prime ore. Le quotazioni nell'immediato, abbiamo visto, sono lievitate moltissimo, portandosi sia sul fronte del greggio del Mare del Nord sia sul fronte di quello americano ai massimi appunto da 6-8 mesi a questa parte. Una fiammata che secondo lei, insomma, potrà riconsiderarsi? Anche voi temete la famosa escalation che temono tutti? Ma guardi, per il momento non c'è l'aumento di $3, di $2.50, tutto sommato è poca cosa rispetto a quello che potrebbe essere. Noi veniamo da una storia in cui il prezzo del petrolio è fortemente influenzato dalla politica, ovviamente non c'è bisogno che lo dica io, ma quello che accadeva negli anni 70 era tutt'altro mondo, ecco, c'erano gli shock petroliferi, c'erano le recessioni mondiali. Vero è che quello che è accaduto già lo scorso 14 settembre con l'attacco sempre di droni, che fra l'altro erano manovrati probabilmente dall'Iran, e quello che è accaduto stanotte ricorda tanto quanto avvenne allora. Sta di fatto che il mercato adesso è in situazione di abbondanza di offerta, ci sono vari fattori, è un mercato più maturo, funziona meglio, è più liquido e pertanto insomma c'è un aumento dei prezzi, ma siamo a meno di 70 dollari, come diceva lei, $70 erano stati raggiunti a maggio, tra l'altro proprio per attacchi petroliere nello stretto di Hormuz, su cui dobbiamo comunque mantenere molta attenzione in queste ore, e siamo ben distanti dagli $82 che raggiungemmo a ottobre del 2018, quando pochi giorni prima che entrassero in vigore di nuovo le sanzioni contro l'Iran, che fecero mancare 2 milioni di barili al giorno di esportazioni, e di nuovo siamo molto più bassi rispetto ai $110 su cui il prezzo si è stabilizzato dal 2009 fino al 2014, ecco, poi dopo c'è stato un forte aumento della produzione saudita, sono crollati. insomma, tutto sommato è un mercato estremamente tranquillo rispetto alla gravità della geopolitica. Tra l'altro, sulle quotazioni del prezzo del petrolio, gli Stati Uniti sono totalmente disinteressati, visto che ormai hanno tutta l'intenzione di uscire dal Medio Oriente, sono autonomi dal punto di vista della produzione interna grazie al fracking, che è la frantumazione delle rocce che porta alla produzione di shale oil, no? Se non dico male, Presidente, perché sì, sono una grande esperta del settore, quindi ogni parola la metto lì un po' a caso, ma diciamo che ecco, tutto quello che potrà essere la ricaduta sulle quotazioni del greggio, gli Stati Uniti non sarà certo quello che limiterà la loro eventuale ulteriore azione. Ecco. Ecco, la debolezza del prezzo del petrolio è soprattutto dovuta alla produzione americana degli Stati Uniti, che in 10 anni è più che raddoppiata. Anche quest'anno, 2019, appena concluso, è aumentata di 1,4 milioni per il giorno, un nuovo record di 18 milioni, loro consumano 2 milioni con un po' di aggiustamenti, sono vicini all'indipendenza petrolifera, che era una cosa che aveva annunciato Nixon nel 1974, addirittura che doveva raggiungerlo entro il 1980, non è mai stata raggiunta, perciò è vero, completo disinteresse non c'è, ecco, però è tutto altro mondo rispetto ad allora. È preoccupato, ecco, Trump, anche del prezzo del petrolio, ma proprio per il fatto che è così basso, grazie alla produzione americana, più c'è il rallentamento della domanda, più ci sono le scorte alte, c'è l'Arabia Saudita che ha prodotto tantissimo, ecco, ci sono altri fattori, ma questa è la rottura nel mondo dell'energia più importante assieme alle rinnovabili. Ecco, grazie a questo Trump è molto più tranquillo in questo percorso di abbandono del Medio Oriente, come giustamente sottolineava lei, e può così con molta leggerezza lascia cadere qualche bomba in giro che però per il momento non ha grandi ripercussioni. Occorre dire che adesso dobbiamo vedere cosa farà l'Iran. Vediamo invece che cosa farà l'Italia, Presidente Tabarelli, perché a parte la presenza di militari che abbiamo indicato prima, allora abbiamo anche molti interessi economici in queste aree. Ce li descrive brevemente per capire anche da questo punto di vista quali tipi di ripercussioni ci si deve aspettare dal nostro punto di vista. Ma adesso, prima cosa è che noi siamo uno dei paesi al mondo più esposti all'instabilità del prezzo del petrolio, perché dipendiamo molto, ecco, dal petrolio, come tutta Europa, tutto l'Ocse, tutto il mondo, la prima fonte a copertura della domanda di energia è sempre il petrolio. Da 50 anni, dal primo shock petrolifero, che diciamo che dobbiamo ridurre la dipendenza dal petrolio, ma questo continua a essere importante perché non ci sono alternative nei trasporti. Tanto l'Italia, quando aumenta il prezzo del petrolio, aumenta il deficit energetico. Quest'anno per fortuna è stato relativamente basso, intorno ai 30 miliardi di euro, intorno a 1,5% del PIL. Appena aumenta il prezzo, però questo porta ad esportare più valuta per importare questa materia prima. Non è più legato tantissimo il gas al prezzo del petrolio. Le cose però più interessanti sono sempre sui carburanti, nel senso che adesso il prezzo della benzina è intorno a 1,6 euro per litro, il diesel, quello più consumato, intorno a 1,47-1,50, ci sarà un aumento da domattina nei prossimi giorni, domattina vedremo 1-2 centesimi in più, se le cose si stabilizzino abbiamo finito, altrimenti aspettiamoci ulteriormente, ma siamo ancora molto molto più bassi rispetto ai picchi che abbiamo già raggiunto nel 2012. Infine, non dobbiamo dimenticare che ce ne vorrebbe di inflazione adesso in giro per Europa, anche in Italia, perché siamo in deflazione. Il problema è che quando l'inflazione arriva per effetto di questi temi qua, è un'inflazione che viene definita non tanto buona, Presidente, come lei sa, quindi non è proprio quella salutare esattamente per l'equilibrio economico e macroeconomico. Detto questo, quindi insomma, lei c'è già, allora suggeriamo intanto a tutti coloro che sono un po' in giro di farsi un bel pieno stasera e di approfittare del fatto che lo stiamo già preannunciando, che da domani ci potrà essere un ritocchino verso l'alto delle quotazioni appunto dei carburanti. Che cos'altro dobbiamo dire rispetto a questa crisi, Presidente? Sono ancora le prime battute, insomma speriamo naturalmente che, come hanno auspicato tutti i grandi leader politici internazionali, la situazione un po' si calmi. Stavo pensando che proprio poche settimane fa si è quotata Saudi Aramco in Arabia Saudita, che adesso paradossalmente un po' per la lievitazione dei prezzi potrà avvantaggiarsi quantomeno in borsa di questa situazione, pur avendo scelto di rimanere quotata nella sua area in Arabia e non andare in giro per i mercati internazionali sulle altre piazze finanziarie. Presidente, è un tema affascinante, sì, questo? Da questa quotazione per i prossimi, per sempre, avremo da speculare sul fatto che i movimenti dei prezzi sono più o meno direzionati dall'Arabia Saudita. Loro sono l'artefice del mercato petrolifero, possono decidere sempre se il prezzo va giù o va su, come vogliono. Di fatto che nel loro interesse è la stabilità dei prezzi intorno a questi livelli, $70 andrebbe benissimo, perché hanno un'enorme quantità di questa roccia nera che potrebbe diventare un sasso inutile se effettivamente, come auspichiamo, come molti dicono che sarà dietro l'angolo, arriverà l'auto elettrica, arriveranno le rinnovabili, così, cose che temono anche loro. Pertanto, per sfruttare questa enorme quantità di riserve nella maniera ottimale, hanno bisogno di prezzi stabili. Perciò io credo che in realtà, ancora prima di prezzi stabili, loro hanno bisogno di fare politica stabile, di fare una società moderna, di fare pace con gli sciiti e i sunniti. Cioè, tutto il mondo ha bisogno di un mondo arabo, di un mondo Medio Oriente, di un rapporto arabi-iraniani pacifico. E questa è una grande opportunità anche per l'Europa, per l'Italia, che invece è un mercato che non cresce, che invece potrebbe con la pace esportare, cominciare dalla Turchia, che però la Turchia si sta espandendo un po' troppo rispetto alle nostre così interessi nella nostra vicina Libia, dove purtroppo la Libia è un caso scolastico di dannazione del petrolio, dove il petrolio è la causa di tutti i mali, perché tutti i soldi che ha preso Gheddafi con l'esportazione del petrolio sono, non tutti, la gran parte sono serviti a comprare armi che adesso sono quelle che le due fazioni usano per scannarsi. La Turchia, che è un grande paese in forte espansione, un paese che in parte europeo, sta mandando aiuti concreti, armi alla Libia, ma anche la Libia, tra l'altro, è un paese che è collegato all'Italia, ecco, a Gela, in Sicilia, con un tubo, il Green Stream, che porta gas. In inverno ne abbiamo bisogno parecchio, una parte di questo gas viene dalla Libia, dove c'è questa instabilità politica che assomiglia molto a quella dell'Iraq. Ecco, la cosa importante è in Libia, Nord Africa, Medio Oriente, dagli Stati Uniti con Trump si stanno ritirando in questa maniera un po' ingombrante, un po' violenta che sta adottando Trump, lasciano un vuoto, questo vuoto sta creando dei gravi problemi e una patata bollente che avremo da maneggiare noi, ecco, nei prossimi mesi. È chiarissimo. Grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buona serata, presidente, buon anno ancora. Grazie a voi, buonasera. Che facciamo? Ci fermiamo, poi andiamo alle auto, alla borsa, rapporto COP, molto velocemente, tre temi in mezz'ora, dovrò fare i salti mortali, ma li faremo. Focus Economia. Allora, dai carburanti al mercato dell'auto, il passo è brevissimo, lo facciamo con Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera, direttore, buon anno anche a lei. Buonasera, buon anno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ho raccomandato poco fa con Davide Tabarelli di Nomisma Energia, con un filo di ironia per sdrammatizzare questa giornata, di sbrigarsi a fare il pieno stasera, perché già domani avremo un po' di ritocchino, immaginiamo, alla pompa. Non abbiamo voluto scaricare, non abbiamo voluto fare nessun allarme, ci mancherebbe altro, noi speriamo che questa crisi odierna venga ridimensionata molto rapidamente. Già mi sono tirata addosso, non ne dico quanti insulti, Quagliano. Mi aiuti lei raccontandoci che cosa è successo invece al mercato dell'auto nel 2019, che si chiude con un bilancio leggermente positivo, più 0,3%, molto bene dicembre, bene ma non benissimo Fiat Chrysler, è un settore che è al centro di una profondissima trasformazione. Chissà che cosa potremmo raccontare in questo 2020 per il mercato automobilistico. Da cosa vuole partire? Beh, speriamo di raccontare delle belle storie. Noi cominciamo questo anno, il 21, facendo una conferenza stampa a Milano, in cui parliamo proprio delle sfide del 2020, che saranno soprattutto l'inizio del processo di decollo della introduzione dell'auto elettrica in Italia, e invece ci saranno un ulteriore passo avanti verso l'auto a guida autonoma, che è un processo lento che si compie però di giorno in giorno con tutta una serie di innovazioni. E che magari chissà che non abbia un'accelerazione improvvisa, quando meno ce lo aspetteremo. E quindi, insomma, pronti, vedremo, a grandi annunci per quello che riguarda il vostro evento. Sul invece il mercato, su come è andato nel 2019, abbiamo avuto delle sorprese oppure tutto come nelle attese? No, non abbiamo avuto delle sorprese, perché con una situazione economica, un quadro di sostanziale stagnazione, con la demonizzazione del diesel, con ancora gli effetti che si sentono dell'introduzione del nuovo sistema di omologazione WLTP nel 2018, non si poteva pensare di avere un anno sfolgorante. In effetti sfolgorante non è stato, perché si è collocato più o meno, anzi leggermente al di sopra del dato del 2018, quindi siamo a poco più di 1.900.000 autovetture, che non è un grande risultato se si pensa che prima della crisi il mercato italiano viaggiava con immatricolazioni annue intorno ai 2.250.000. Quindi questa situazione sta determinando un forte invecchiamento del parco circolante. Sono 39 milioni di autovetture, ma ce n'è una parte molto importante che è fortemente inquinante e anche poco sicura. Certo, non ci dimentichiamo che ci sono stati degli anni quando il mercato viaggiava con numeri molto, molto positivi, se non addirittura impressionanti. Ci sono stati degli anni in cui il mercato godeva anche di grandi incentivi e benefici fiscali, per cui venendo meno quelli ovviamente il consumatore si è sentito un po' sprovvisto di forza economica anche per fare questo, che è un vero e proprio investimento nell'ambito di un nucleo familiare, perché poi non ci dimentichiamo che c'è l'assicurazione, ci sono tutte le spese indotte per la manutenzione, che non sono poche. Quali sono stati i modelli più apprezzati dai consumatori italiani, Quagliano? Non mi faccia questa domanda, non posso, è una domanda imbarazzante. Parliamo di marche, parliamo di gruppi. Allora, la metta come preferisce. Lei l'ha già detto, già anticipato che il gruppo FCA ha perso un pochino quota. A dicembre, però, sì. Però se consideriamo insieme il gruppo FCA e il gruppo PSA, che come tutti sappiamo si stanno fondendo, ebbene i due gruppi complessivamente sfiorano il 40% del mercato, che è una quota che non veniva più raggiunta da un gruppo automobilistico da molto tempo, ed era poi stata raggiunta soltanto dal gruppo Fiat in passato. Quindi questo è un primo dato. Poi naturalmente un buon risultato ha messo a segno il gruppo Volkswagen, che è cresciuto dell'8,79%, il gruppo Renault del 6,02%, Ford ha avuto qualche problema, perde un pochino, il gruppo Daimler invece ha guadagnato un 14% in più, quindi un anno non particolarmente sfolgorante, come dicevamo prima, perché la crescita è modestissima, però c'è qualcuno che ha avuto dei buoni risultati. Dal 1 gennaio è in vigore il nuovo regolamento che stabilisce gli standard di prestazione in materia di emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i furgoni. Lo ha reso noto la Commissione europea, precisando che i produttori dovranno ora raggiungere nuovi target più severi fissati per le emissioni medie a livello di flotta di auto e furgoni nuovi immatricolati in un determinato anno. Entro il 2025 i produttori dovranno ridurre le emissioni a livello di flotta del 15%, sia per le auto che per i furgoni, rispetto ai livelli del 2021. Infine, entro il 2030 dovranno raggiungere una riduzione del 37,5% per le auto e del 31% per i furgoni. Le tecnologie delle auto stanno andando in queste direzioni, Quagliano? Stanno assolutamente andando in queste direzioni. Lo sforzo che si fa sull'auto elettrica è proprio per cercare di mettere sul mercato un numero sempre crescente di vetture ad emissioni zero, che contribuiranno ad abbassare molto la media delle emissioni. Ma c'è anche da dire che le auto Euro 6 hanno livelli, che sono quelle attualmente in commercio, hanno tradizionali attualmente in commercio, hanno livelli di emissioni veramente molto molto contenuti rispetto al passato. Certo. Il problema vero è che c'è un parco circolante molto vecchio da sostituire. Lei diceva che ci vorrebbe uno sforzo degli italiani, ci vorrebbe uno sforzo anche del governo, perché quando ci trovavamo in una situazione nel 1993, di una situazione analoga a questa, con la grande crisi dell'auto, una forte crisi economica, la soluzione dopo tre anni, alla fine del 96, fu quella di adottare degli incentivi alla rottamazione, che poi, come la Banca d'Italia ha certificato qualche tempo dopo, non solo furono a costo zero, perché il maggior gettito di IVA aveva completamente pagato il costo degli incentivi, ma determinarono anche un incremento del PIL dello 0,4%. secondo me quello che si è fatto allora si potrebbe anche rifare oggi. Sa com'è quel Gian che chiedono un po' tutti, che chiedono un po' tutti, chi si sente ogni categoria economico-produttiva avrebbe bisogno di essere sostenuta in qualche maniera, e qua mi pare che le coperte siano un po' troppo... Questo è vero, tutti chiedono, ma qui a fronte di una richiesta c'è una contropartita, perché un intervento di questo tipo, fa ambientale, ma non solo, dà anche una grossa spinta all'economia. Mm-hmm. Allora, vabbè, a patto che tutte le strade italiane su cui circolare siano a posto, e questo è l'altro grande tema legato anche alla circolazione delle auto. Presidente, no, mi leggo un po' alla trasmissione che ho fatto questa mattina, Due di Denari, in cui abbiamo parlato anche di tutte quelle persone che viaggiano con altre modalità, che fanno i pendolari e che hanno bisogno di viaggiare sicuri anche dal punto di vista stradale, perché poi ne va anche della tenuta delle nostre auto. E con questo piccolo editoriale di chiusura ringrazio Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, per essere stato con noi. Buon anno naturalmente, e in bocca al lupo per il vostro evento delle prossime settimane. Grazie a voi per l'invito e buon anno a tutti. Buon grazie. Anno, e adesso andiamo a vedere invece come si è chiusa la giornata. Come si è chiusa la giornata di borsa, naturalmente. E allora, intanto saluto Flavia Carletti, Radio Core Il Sole 24 Ore. Flavia, ciao, buonasera. Buonasera e ciao a tutti. Allora, guarda un po' che colpo di coda finale che vedo. Parigi, lo scatto d'orgoglio, dice: sai che ti dico, a me di quello che succede in Medio Oriente oggi voglio proprio disinteressarmene. Quindi un attestato di fiducia a quello che potrà succedere nei prossimi giorni. Parigi segna più 0,04% verso il finale. Rimane ancora in profondo rosso Francoforte, meno 1,25%, ma qui c'è una ragione specifica, adesso Flavia ce la spiega. Londra più 0,18%, Wall Street in questo momento negativa, si mantiene sui valori di apertura, meno 0,7% per il Dow Jones, meno 0,57% per lo Standard & Poor's, meno 0,56% per Piazza Affari. Tutta la questione tra Stati Uniti ed Iran l'abbiamo spiegata in lungo e in largo, Flavia, però mi pare che sul finale, alla fine, il mercato come dire, in realtà va per la presa di profitto dei rialzi di ieri più che manifestare una grossa preoccupazione sugli accadimenti internazionali. Sì, esattamente, questa mattina appunto c'era stata subito un'apertura negativa, poi nel corso della giornata c'era stato un peggioramento quando arrivavano nel frattempo le conferme dal Pentagono, poi i tweet di Trump, però poi alla fine appunto i mercati sono sui massimi, hanno comunque chiuso l'anno in rialzo, la stessa Wall Street ha continuato per una serie di sedute ad aggiornare i massimi, e quindi sul mercato in qualche modo gli investitori dicono sì, c'è tensione, bisogna vedere cosa succederà, però allo stesso tempo per ora non c'è stata nessuna contromossa iraniana, quindi di fronte al fatto che sui mercati c'è in qualche modo da guadagnare ha prevalso un po' di cautela, e quindi questo, diciamo, il fatto che non ci sia stata la corsa alle vendite in qualche modo poi alla fine è stato quasi il mercato che si è quasi da solo aiutato, diciamo, a non crollare in qualche modo. Si è rimesso in equilibrio. Sì. Francoforte, dicevamo, invece perde più di un punto percentuale, qua non è colpa di nessun tipo di titolo in particolare, ma di un dato macroeconomico che ha preoccupato parecchio a quanto pare. Esattamente, appunto Francoforte oggi ha fatto in qualche modo un po' storia a sé rispetto al resto d'Europa, oggi è uscito il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione in Germania, che nel mese di dicembre sono saliti più delle attese, e anche se il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 5%, il fatto che ci sia stato questo aumento di 8.000 unità a dicembre dei sussidi fa pensare che comunque ci sia un po' da stare attenti a quello che è l'andamento del mercato del lavoro, anche perché il mercato del lavoro tedesco veniva invece dal mese di novembre, dove c'era stato un calo di 14.000 richieste di disoccupazione, quindi questo rialzo di dicembre ha un po' destato preoccupazione. Flavia, ti chiedo un attimo di pazienza per la nostra pausa, sui temi di Piazza Affari andiamo tra pochissimo. Focus Economia. Flavia, ritorniamo di nuovo con te per fare il punto della giornata a Piazza Affari. Ovviamente tutti in evidenza i titoli del settore petrolifero, anche se sul finale c'è qualche altro titolo che fa meglio dei titoli legati al greggio. Sì, esattamente, appunto oggi diciamo il prezzo del petrolio ha avuto, forse è stata il greggio è stata la cosa che ha avuto la reazione più immediata alle tensioni internazionali, infatti il WTI è salito ai massimi da 8 mesi e il Brent da 4 mesi, poi però nel pomeriggio pomeriggio c'è stato il dato sulle scorte settimanali negli Stati Uniti che sono scese più delle attese, quindi questo è stato un fattore di freno all'andamento del prezzo del petrolio e in qualche modo questo ha avuto anche il suo riflesso sui titoli a Piazza Affari. Infatti Tenaris si è mantenuta comunque in testa all'Issina, ha fatto più 1,3%, però Saipem ed Eni, che erano state sempre tra le migliori, alla fine hanno leggermente rallentato. Saipem ha chiuso con un più 0,87% ed Eni più 0,7%, mentre invece sono andate meglio sul finale Recordati e Leonardo, che hanno chiuso entrambe con un rialzo dell'1%. Recordati è un titolo del settore farmaceutico, diciamo, considerato tra i difensivi per eccellenza, infatti sono quelli che in Europa hanno limitato meglio i danni, e Leonardo è attivo nel settore difesa. In questo forse il mercato è un po' cinico, sì, di fronte infatti alle tensioni internazionali va a premiare un titolo che, in caso dovesse esserci veramente certo un'escalation, con gli aerei siamo subito pronti. No, tra l'altro stamattina ad un certo punto della mattinata avanzavano solamente Tenaris, Saipem, Eni e Leonardo Finmeccanica, erano solo i quattro, gli unici titoli positivi proprio nelle prime battute della giornata. Scusami, di Tenaris mi hai detto, me la sono persa? Sì, Tenaris appunto è la migliore . E naturalmente è un titolo che è associato al prezzo, al settore petrolifero, perché comunque è attivo nel settore dei tubi per la perforazione . E produzione petrolifera. In più oggi ha annunciato di aver completato l'acquisizione del gruppo americano che fa sempre tubi in acciaio, IPSCO Tubulars, e consoliderà subito i risultati dal primo trimestre del 2020, e in più, in base a una serie di accordi commerciali, avrà anche l'esclusiva per 6 anni nel mercato nordamericano dei prodotti della società da cui ha comprato questa società americana, che è PAOTMH. Vendite diffuse su tutti i bancari: UbiBanca il peggiore, meno 2,89, Unipol meno 2,84, FinecoBank meno 2,68, male anche il mattone, Buzzi Unicem meno 2,65, Pirelli di nuovo giù dopo aver recuperato ieri qualcosa, meno 2,54, Banco BPM meno 2,39 dopo i dati sulle immatricolazioni di ieri. Oggi anche Fiat ha subito un'altra battuta d'arresto. Ha perso il 2,08% e appunto ieri pomeriggio a borsa chiusa sono usciti i dati sulle immatricolazioni auto di dicembre e dell'intero 2019, che hanno evidenziato per il gruppo FCA un calo delle immatricolazioni a dicembre del 2,31% e del 9,52% per l'intero certo anno, mentre invece il mercato sia sul mese di dicembre che sull'intero anno ha chiuso con il segno più. Sì, sì, sì, l'abbiamo raccontato fino a poco fa. Ancora un piccolo caso da raccontare, riguarda ovviamente, questo pure è legato al tema geopolitico del giorno, riguarda i forti acquisti sul titolo Confinvest, una società milanese peraltro quotata non da moltissimi mesi, attiva nella vendita di oro, lingotti e monete, che oggi ovviamente ha approfittato di tutta questa tensione internazionale nella piccola Milano. Sì, esattamente, appunto ha chiuso con un 16,79%, la società è quotata all'AIMA, ma comunque la performance è stata una delle migliori di tutto il listino milanese, compreso appunto l'MTA e l'AIMA, e come dicevi appunto ha beneficiato di questo andamento dell'oro, che oggi è arrivato ha recuperato quasi i massimi da settembre, e è stato, diciamo, il movimento è stato legato anche in questo caso alle tensioni internazionali, che hanno fatto spostare nella mattinata molti investitori su quelli che sono considerati beni di rifugio, l'oro per eccellenza, ma anche su altre materie prime preziose. Confinvest ha fatto più 16,79% sul finale. Tensioni, anche qualche movimento sui titoli delle compagnie aeree, non riusciamo a raccontarlo. Flavia, ti ringrazio per essere stata con noi e buona serata, a presto. Grazie, buonasera a tutti. Andiamo all'ultimo tema di stasera. E anche questo è un appuntamento che ormai dobbiamo rispettare assolutamente all'inizio di ogni anno, e c'è la presentazione del rapporto COP sulle scelte di consumo degli italiani. È un rapporto però molto dettagliato, perché non si limita solamente a descriverle, ma forse analizza proprio quello che è l'animo che in qualche maniera muove i consumatori quando devono fare delle scelte per se stessi e per la propria famiglia, delle scelte di consumo. Albino Russo, direttore generale di COP, buonasera e grazie di essere tornato con noi. Buonasera a voi e buon anno a tutti. Allora, un bisogno di cambiamento necessario per uscire dallo scenario asfittico e immobile dell'Italia di oggi, un bisogno di cambiamento che punti su clima, ambiente e sostenibilità. Questo è, in sintesi estrema, perché il rapporto è molto articolato, il ritratto degli italiani che si affacciano sul 2020 secondo questo vostro sondaggio di fine anno, sondaggio elaborato insieme a Nomisma, e ci sono anche le previsioni del rapporto COP, che peraltro voi avete anche un pochino anticipato, adesso fate questa versione digitale in settembre, ma in In ogni caso, insomma, che cosa emerge? Quali sono i profili più interessanti dell'italiano che consuma emersi da questa nuova rilevazione, Russo? Gli italiani sono stanchi di attendere in maniera supina che qualcosa cambi. La parola speranza per la prima volta abbandona il vertice della classifica dei termini che accolgono l'anno nuovo e viene sostituita dal cambiamento. Gli italiani quindi sanno che si devono rimboccare le maniche, che non devono più sperare in un mondo che verrà, ma nel loro piccolo devono provare a cambiare le cose. In che direzioni? Sanno benissimo che l'economia non andrà molto meglio di così, infatti il principale rimpianto delle famiglie italiane è appunto di sperare in un'economia che cambi, ma avere allo stesso tempo la consapevolezza che questo non avverrà. E allora si utilizzano le poche risorse a disposizione per tentare di cambiare la propria vita, dedicando tempo, spazio e attenzioni a se stessi e contemporaneamente allargando questa attenzione anche al territorio e all'ambiente che ci circonda. E quindi appunto prendersi cura di sé da un lato, ma anche sviluppare una condizione di vita più sostenibile, usare meno l'auto, andare di più a piedi, sprecare di meno, mangiare meglio, sono quelle piccole cose della vita quotidiana su cui gli italiani stanno prendendo nota per la wish list del 2020. Voi li chiamate i nuovi valori imposti dai ragazzi della generazione Greta? Sì, è sorprendente quest'anno come nelle parole che descrivono il 2020 i primi tre termini fanno riferimento ai temi della generazione Greta: clima, ambiente, sostenibilità, più giù, economia circolare. Quasi il 50% degli italiani individuano i temi che fanno generalmente riferimento all'ambiente l'agenda del 2020. Solo molto più in basso vengono altri temi cari anche questi a una parte importante del paese, come le elezioni, l'immigrazione o la recessione. La guerra è indicata solo dall'1% degli italiani, ma si sa, i cigni neri non possono essere previsti come quello che forse se no, non sarebbero tali. Senta, allora, questi temi li lasciamo a Laura Bettini, che se ne occuperà, so, con lei anche a Si può fare nel weekend. Andiamo agli altri temi economici che emergono da questo rapporto. C'è un passaggio della rilevazione che dice: le tinte fosche dello scenario del paese si ravvivano qua e là dell'energia di un meridione, di un centro che insieme agli under 35 sono determinati a rincorrere il nord e trascinare il paese fuori dalla risacca, a meno stando alla volontà delle persone interpellate. Ci descrive meglio questo passaggio? Sì, questo è l'altro elemento che in un qualche modo sorprende dell'ultima rilevazione. Gli italiani hanno voglia di spendere un po' di più, sanno di doverlo fare soprattutto per le spese obbligate, ma non accantonano definitivamente l'idea di anche fare un po' di acquisti per sé e per prendersi cura di se stessi. Quali sono gli italiani che manifestano maggiormente questa attitudine? Beh, tra gli under 35, tra i residenti del centro-sud, la quota di italiani che pensano di spendere di più nel 2020 supera in maniera più significativa del resto d'Italia quanti prevedono di spendere di meno. C'è un saldo positivo che si avvicina al 15%. Sono piccoli numeri, naturalmente i due terzi della popolazione italiana continua a pensare che spenderà nello stesso modo, è consapevole delle difficoltà e della mancata crescita che affligge il mercato italiano, ma c'è questo segnale di disponibilità, probabilmente per il rasserenarsi del clima politico, o almeno dopo la finanziaria, probabilmente perché c'è una parte del paese che spera che il reddito di cittadinanza aggiunga nei primi mesi dell'anno qualche euro in più al portafoglio di spesa, soprattutto nelle aree marginali, o forse perché ci si attende o si spera che qualcosa di meglio possa arrivare. Naturalmente questo segnala anche un altro aspetto, che i residenti del sud e i giovani sono quelli che avrebbero più bisogno di spendere, che hanno più urgenza di farlo. Se avranno quelle risorse da impiegare, anche questo è comunque da vedere. Allora, a proposito di questi consumi di cui voi siete preoccupati, perché probabilmente prevedete che non potranno ripartire nel 2020, anzi faranno registrare una crescita stimata di circa 0,5 punto percentuale in un quadro di accelerazione del PIL altrettanto contenuta, però oltre al reddito di cittadinanza che potrebbe essere un pochino riversato anche su appunto sul panorama dei consumi, voi avete delle aspettative, non voi. Il rapporto lo dice, quindi chi avete interpellato, hanno delle aspettative positive anche rispetto alla riduzione del cuneo fiscale, che è l'altra grande operazione fatta sul lavoro dall'ultima manovra di bilancio. E dovremo vedere come è costruita. Certo, il fatto che finalmente si mettano da parte un po' di risorse per premiare il lavoro è positivo, è uno degli elementi che probabilmente incoraggia gli italiani a pensare che potranno spendere qualche euro in più. Naturalmente dovremo vedere anche in questo caso come questo verrà declinato in manovre operative, oltre lo stanziamento fatto in finanziaria, ma è certamente un elemento positivo e che andrebbe incoraggiato. Certo, questo ce lo deve dire in 40 secondi, Russo, perché sto chiudendo. E alla grande distribuzione come andranno le cose nel 2020? Ma noi contiamo che la grande distribuzione continui a sovraperformare il mercato. Dopo alcuni anni in cui i consumatori erano andati in libera uscita presso altri canali, sembrano tornati a fidarsi soprattutto, in particolare, della grande distribuzione. Al carrello della spesa, quello vero, non quello virtuale. Esatto, speriamo che sia così. Grazie ad Albino Russo, direttore generale di Coop. Naturalmente di questo rapporto leggeremo moltissimo sui giornali nei prossimi giorni. Io intanto ringrazio Barbara Bianchi e Claudio Balboni per la collaborazione appunto in redazione e la stesura del programma di questa sera, Roberta Frisani per la regia. La mia avventura in questa prima parte del 2020 a Focus Economia termina qua, ma chissà che non mi tocchi ritornare prossimamente, probabilmente succederà. Intanto io ne approfitto per augurarvi un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì a 2 di denari con Mauro Meazza, anche se l'Epifania saremo qua regolarmente. A tutti, buon fine settimana.